tu devi sempre portare rispetto alle cose della famiglia. Cesca, sì, com'è? La Cesca ma è qua alla presentazione. Con l'Uribellino e l'Ufusco, ancora in collaborazione. Con due voci e lo stesso cuore. A parlare della famiglia e dello suo amore. Brava, brava. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Tegno la famiglia sempre in cialucori. Grazie a mamma e sirma io già sudo fuori. Come lo padrino massimo rispetto. Provi con me la tua e chi è io te spezzo. Alle tradizioni sua son moto legato. Tutti le grandi banchetti non m'ha già scirrato. Di Natale e di Pasqua con le parenti. Si leggia la poesia e tutti più contenti. Sopra la seggia mi mintia tutto emozionato. Leggia certi rimi che la maestra me l'ha insegnato. Appena spicciava l'applauso partì. Ecco io con sordi portando allegria. Di la famiglia non t'ha scerrare mai. Capuro ci sei grande dove da dormerai. L'Uribellino la chi seri un trash tu momento. Sti parole so per voi per ringraziamento. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Alla famiglia tua non c'ha votare ma gli spazi di quando si bagnone fino a quando ti faci grande. Ca non c'ha scappare e a fate tutto con se espande. E sempre sta famiglia tu ti fiandi con se acuti capendo dopo per puntare le gente. Di parenti tu a dire tutti li faccendi. Di un'unione tra di noi che insieme lo sole mostra splendi. Di tutti li mangiati tutti quei giornati belli c'è belli se ne stupendi. Ogni tanto mi sento caggiacchiare tutti i parenti. E buono che buono io buono mi sento piccile pece in faccia. Tutti contenti in casa niente casi creano un tra le stanze. Don Casanna ha fatti milioni di pranzi. Dopo scuti la digi che non t'ha straccare mai. Cupiti cugini vicini e lontani pure quando capono guai. Dopo scuti la digi che non t'ha straccare mai. Cupiti cugini vicini e lontani pure quando capono guai. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo nude alla famiglia ammatato. Salutiamo e ringraziamo i nostri genitori. Io saluto a sorma con tutto lo cuore. Io li frati mia con tanto calore. Pochi ma intensi sono tutti parole. E non c'ho speciale vai gli zii e li cucini. Caputana china ma fatti sini sini. La mano all'aria per le nonne loro insegnamenti. Ca vicino all'uve con le contano tutti contenti. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Alle cose sua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Ribellino, presentami. Fusco, mi metti la base? La persa in combination con l'Uribellino e lo Fusco. Ciao, arredo! Famiglia ci sei dentro e sembrano solo guai. Ma chi sei cosa fai quando non ce l'hai? Tra incomprensioni e litigi vari. Vanno via gli amici ma restano i tuoi cari. Ci sono nei momenti belli ed in quelli brutti. Le tue gioie e i tuoi dolori li vivono tutti. Nessuno ti vorrà mai così tanto bene. Asciugano le lacrime di tutte le tue pene. Grazie ai genitori quando m'hanno sgridata, correggendo ogni mia scelta sbagliata. Mamma nei momenti bui unico sostegno, ed è per te che nella vita ora mi impegno. Papà con il suo onore che dell'onore è degno, dentro me ci sarà per sempre il tuo segno. Grazie perché quando la mia immagine è riflessa, so che un pezzo di voi l'avrò sempre in me stessa. Alle cose tua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. Alle cose tua porta rispetto e merito. Loro ci tenemo lo detto che a noi mai niente ne è mancato. Un ringraziamento alla famiglia ammatato. tu devi sempre portare rispetto alle cose della famiglia.